Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi saliamo sulla bilancia, è l'Obesity Day, una giornata per fare prevenzione e informazione sui rischi legati al sovrappeso e all'obesità, ma soprattutto per far conoscere i vantaggi del mantenersi in forma. Ancora una volta le ricerche lo dimostrano, dieta mediterranea e attività fisica sono gli ingredienti per centrare l'obiettivo. E a Obiettivo Salute il professor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e direttore di diabetologia e dietologia all'ospedale di Terni. Quest'anno per l'Obesity Day parliamo di dieta mediterranea loco-regionale, parliamo sempre di pesce, ma abbiamo anche il pesce di acqua dolce, abbiamo tanti laghi, tanti fiumi, abbiamo le trote, abbiamo i gamberi, abbiamo una serie di prodotti che possono benissimo sostituirsi a quelli che sono normalmente conosciuti. Abbiamo anche tanta frutta e verdura, pensiamo all'arancia amare, le merangole, che dovrebbero avere un valore addirittura superiore dal punto di vista di antiossidanti e di prevenzione rispetto alle arance tradizionali. Pensiamo ad alcune mele come le annurche, che in realtà hanno un quantitativo veramente eccezionale di antiossidanti. Può colpire la colonna, le ginocchia, le anche, ma anche le mani e in genere le articolazioni che usiamo di più e quelle che sopportano il nostro peso. Parlo dell'artrosi, malattia che è caratterizzata dal deterioramento della cartilagine delle articolazioni. Tra le cause, oltre ai geni, all'invecchiamento e al sovrappeso, potrebbe esserci anche l'ambiente in cui viviamo. A Obiettivo Salute il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'ospedale Humanitas e docente dell'Università degli Studi di Milano. Oltre a fattori difficilmente modificabili come la genetica o il sesso femminile o l'età, il rischio di sviluppare artrosi è basato anche su fattori non individuali e legati all'ambiente. Questi in particolare sono l'utilizzo delle articolazioni, pensiamo in particolare, soprattutto nei tempi moderni, alla scrittura e quindi all'artrosi che colpisce il primo raggio delle mani, ma pensiamo anche all'epidemia dell'obesità che aumenta il carico di articolazioni come quella dell'anca e del ginocchio. In questo senso è importante vedere come un recente studio ha valutato l'incidenza di artrosi nelle diverse ere dello sviluppo dell'uomo e in questo senso il ritrovamento della mummia Lucy ha mostrato, avendo avuto anche un pezzo di bacino intatto, come già ai tempi c'era artrosi, ma sicuramente in maniera inferiore rispetto ad oggi. Come tenete la bocca di giorno e di notte? Forse fa cose di cui voi non siete a conoscenza, magari bruxate, russate. Pensateci, guardatevi e guardatemi. Vi aspetto live tra poco in diretta Facebook con la dottoressa Alessandra Rigoni. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto tra poco e domani alle 12 quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.